La storia del calciatore Lucarelli, per un verso e un verso soltanto, è analoga a quella del mio portinaio. I fatti essenziali sono questi. Allora, Lucarelli, livornese, attualmente gioca nel Padova. Nei giorni scorsi ha la soddisfazione di essere chiamato a far parte della rappresentativa nazionale di calcio, Under 21. Rappresentativa che, guarda la felice combinazione, deve giocare contro la Moldavia proprio a Livorno. Lucarelli gioca e guarda la felice combinazione, riguardala, fa un gol, corre allora sotto la tribuna dove stanno solitamente i tifosi del Livorno e fra gli applausi e nell'entusiasmo fa quello che aveva sognato di fare, si alza per un attimo la maglia azzurra e ne scopre un'altra che portava sotto, un'altra che di azzurro non ha niente ma che in compenso ospita l'immagine di Che Guevara. Il giorno dopo apriti cielo. A protestare non è l'ambasciata cubana, ma i tifosi del Padova. In Che Guevara riescono a vedere il comunismo in terra e l'irrisione delle loro convinzioni ideologiche che, a quanto pare, pendono a destra. Con Lucarelli ce l'hanno sulla morte. Lui cade dalle nuvole e spiega che a Livorno, alle partite di calcio del Livorno, i tifosi sventolano bandiere con la faccia di Che Guevara e che lui, per festeggiare con i suoi compaesani, in caso di gol aveva pensato semplicemente di uniformarsi, fare un gesto carino. L'eventuale comunismo di Che Guevara è quindi del tutto estraneo alla vicenda. Sulla porta della guardiola del mio portinaio, nei giorni di Pasqua, stava appeso un cartello su cui era scritto: il portinaio ringrazia del regalo quel barbone e vile che non si firma e infama i condomini. Buona Pasqua. La curiosità, anzi non infama i condomini in genere, infama i condomini, scusate. Buona Pasqua. La curiosità cominciò a serpeggiare nel palazzo. A che punto erano giunte le lotte fra le opposte fazioni? Insomma, si trattava di un'offensiva del partito armato per la ristrutturazione degli ascensori, del comitato per la testa dell'amministratore, si trattava di un'abile trappola tesa dal gruppuscolo che vede nel portinaio uno scalcolo politico contro il rinnovo dei contratti per le pulizie delle scale, non lo so, si trattava della nuova iniziativa del misterioso condomino solitario che da qualche tempo invia lettere anonime prive di affrancatura per accusare di immobilismo l'assemblea condominiale. I condomini, si sa, sono una giungla. Si dovette attendere il suo ritorno per sapere come erano andate esattamente le cose e non nego che ne rimasi piuttosto deluso. Sembra che durante la notte, prima dell'inizio delle festività, qualcuno avesse appeso alla maniglia della guardiola un pacchetto con una esplicita dedica al portinaio: auguri di buona Pasqua, firmato i condomini. E dentro il pacchetto c'era mezza torta, peraltro regolarmente impacchettata. Mezza. Ora, il mio portinaio è certo del fatto suo. Trattasi di insulto diretto alla sua persona, insulto diretto alla sua persona e di insulto indiretto nei confronti del condominio medesimo, che mai e poi mai può essere considerato così sul lastrico da regalare appena mezza torta in 60 famiglie che lo compongono. Lui la pensa così e non vede l'ora di mettere le mani sul barbone vile che non si firma infama. Vabbè, mentre a me non rimangono che meste considerazioni sulla malfermità del linguaggio in genere e dei simboli in particolare. Sia il calciatore Lucarelli che il mio portinaio potrebbero averci tutte le ragioni del mondo. Un'analisi del linguaggio la compio sempre in sincronia, ovvero nel momento preciso in cui sto parlando. Che Guevara 20 anni fa, a livello di simbolo, era una cosa e tutt'altra cosa è adesso. A Livorno, nello stadio, disegnato su una maglietta. Mezza torta in tempo di guerra avrebbe costituito la festa del portinaio e di tutta la sua famiglia. Mezza torta oggi è un insulto, anche se i prodromi per ritenere ormai prossimo il ritorno ai valori del passato, vabbè, ai noi ci sono tutti. Il rischio che domani mezza torta torni a designare grandono e festa per tutti c'è e come se c'è. Anche perché in più della metà del mondo mezza torta significa festa già oggi. Tuttavia, al medesimo mercato linguistico partecipano anche i tifosi del Padova. In nome della loro fede reazionaria hanno bloccato lo slittamento semantico che presso altre fedi è toccato a Che Guevara, che per loro non è ancora diventato il simbolo dei tifosi del Livorno, ma è rimasto simbolo dell'abborrito comunismo. Al mondo ci sono anche loro, e tanti altri, ciascuno con la propria specificità, propri tempi evolutivi, propri adattamenti al cambiamento, proprie resistenze. Se non si sincronizzano gli orologi del cambiamento linguistico, è chiaro che parlarsi diventa sempre più difficile, se non impossibile. Come bussare domani alla guardiola del mio portinaio e chiedere se per caso fosse avanzata una fetta di torta da mangiarsi assieme, portandosi magari dietro mezza bottiglia di vino. Mezza,